Allora, io passo molta parte della giornata, buona parte della giornata a fare video lezioni per lavoro. Vi devo dire, in momenti di pausa, di attesa o di esercitazione, cosa metto? La fuga di gatto della mitica Pinky e compagnia di Radio Wombat. E funziona benissimo, apprezzatissima da tutte le classi degli studenti. Grande fuga di gatto. Fuga del gatto, Radio Wombat, ovviamente ci mancherebbe. Sono le 17:06, puntualissima. Vedete a cosa serve la quarantena? A farmi arrivare puntuale in radio, perché chiaramente avendo la tana del Wombat in casa è più facile. E comunque rischio lo stesso di essere in ritardo, ve lo dico, insomma, però migliora la cosa. Avete sentito un contributo da un nostro fan in apertura perché sul sito di Radio Wombat, wombat.noblogs.org, ve lo diciamo ormai da qualche settimana, si sono aggiunti due modi di poter interagire con noi e di poter mandare i propri contributi. Uno è il pad della diretta, col quale insomma potete dirci un po' cosa ne pensate, potete anche aiutarci dandoci dei feedback in diretta se i volumi sono decenti, se tutto sta procedendo per il meglio, eccetera, eccetera. E l'altro strumento è la messaggeria vocale dove appunto se volete potete farci arrivare i vostri messaggi, un po' quello che pensate, quello che non pensate, come state passando la vostra quarantena, cosa state facendo, insomma un po' tutto quello che vi passa per il cervello. Magari appunto volete anche raccontarci alcune situazioni che vi sembrano essere sfuggite ai nostri orecchi o ai nostri microfoni a cui volete dare risalto. Insomma, scriveteci e mandateci un messaggio sulla messaggeria. La fuga del gatto, come le ultime settimane ci insegnano, sta leggendo, io nel particolare, perché sennò veramente parlo pure in terza persona, la follia mi prende la mano, e insomma vi sto leggendo a puntate L'affare Vivaldi di Federico Maria Sardelli, ve l'ho già insomma citato più volte, ne abbiamo parlato nelle scorse puntate. Siamo alla puntata numero 3, per cui mi sembra il caso di non perdere altro tempo e iniziare subito appunto nella nostra lettura. Oggi ci aspetta, eravamo arrivati, in realtà non l'ho fatto apposta, ma insomma avevamo finito il capitolo 3 per l'appunto, e questa volta quindi andiamo a leggerci, appena trovo il punto, vado a leggervi il capitolo 4. Borgo San Martino, Monferrato. Autunno 1926. Il segretario si affacciò timidamente nello studio del rettore, dove già c'era un chiacchiericcio vivace. «Perdonate il disturbo, monsignore, è arrivato anche Sua Eccellenza al Podestà. Faccio accomodare?» «Ma certo, che piacere, Eccellenza, vi vedo in gran forma. Accomodatevi pure qui, fra il sindaco e il senatore Cavallero. Perdonate il ritardo, ma da Alessandria qua quello sciocco del mio autista ha sbagliato per due volte la strada. Se fossimo ancora in guerra l'avrei fatto passare per le armi. Su via, Eccellenza Mazzucco, non siate sempre in trincea. Il Vangelo ci insegna a perdonare». «Ha ragione, monsignore Manuel, propongo 5 giorni di consegna e non se ne parli più». E risero tutti divertiti per quel simpatico incipit. «Come vi ho scritto nella mia breve nota di invito, sono lieto di avervi qui riuniti fra le mura di questa casa voluta da Don Bosco e che io indegnamente sono chiamato a governare, per discutere con voi di alcune ideucce su cui tengo ad avere il vostro illustre parere. Ma permettetemi prima di tutto di fare le mie congratulazioni per due felici e recentissimi eventi: la nomina a podestà di Alessandria del caro generale Mazzucco». Il generale scosse la testa sorridendo sotto ai baffoni arricciati all'insù. «E la nomina a senatore del generale Cavallero, due fiori di questa benedetta terra monferrina che fanno grande la nostra patria». E Cavallero agitò in avanti le mani guantate come a dire: «Per carità, per carità». «Piuttosto voi, monsignore Manuel», riprese il sindaco di Casale, «siete voi che celebriamo oggi per la vostra freschissima elevazione episcopale che vi ha raggiunto proprio nella nostra terra con grande gioia di tutta la comunità. Brusio di modestia, troppo buono, figurarsi, non io, voi piuttosto, io che indegnamente, no, l'onore è solo mio». E finalmente la discussione riprese. «Ringrazio la divina provvidenza per il dono che mi ha fatto riportandomi in questa casa salesiana e affidandomi nel gravoso governo che da pochi mesi ho preso in mano con spirito di servizio, dopo che il mio illustre predecessore ci ha, oimè, lasciati», e fece un microscopico accenno a segnarsi. «Ebbene, cari amici, devo dirvi, ma che resti strettamente in camera caritatis, che fin dai primi giorni dal mio rettorato ho trovato un gran disordine, una babele di conti da saldare, una disastrosa conservazione di alcuni edifici del nostro collegio, un senso di abbandono che mi ha stretto il cuore. E allora ho detto: non è questo che ha voluto Don Bosco». Di là dalla grande scrivania di noce, facce serissime e tese scosse in segno di assenso. «Sicché ho deciso di prendere saldamente in mano la situazione e avviare un profondo lavoro di restauro, ammodernamento ed espansione del collegio. Ma per far ciò, date le nostre povere casse, ho bisogno di voi, signori cari, del vostro sostegno e dei vostri buoni uffici. Sono certo che la causa salesiana non potrebbe trovarsi in mani migliori. Fate pure tesoro del mio più diligente interessamento, sia al Senato che presso tutti gli amici che qua in Monferrato mi onorano della vostra stima». Intervenne subito il generale Cavaliere. «Da quando mi hanno fatto amministratore dell'ospedale di Santo Spirito, mi sono reso conto di quanto ardua sia la gestione di codeste opere caritatevoli. Ma non siamo noi... ma non siamo di quelli che non si lasciano scoraggiare, vero, monsignore? Pensate alla battaglia che sto combattendo, dico proprio battaglia, per fare edificare un ponte ferroviario sul Po. Certo, ho l'appoggio del governo, ma non vi potete immaginare quante beghe incontri poi giornalmente sul campo per mandare avanti la pratica. Il nostro sindaco sa bene di cosa parlo, vero?» «Oh, se non lo so!» Palpebre chiuse e occhi all'insù. «Eccellenza, voi siete un benemerito della nostra comunità. In futuro qualche mio successore dovrà pure erigervi un monumento». «Ma che monumento, sindaco carissimo! Al massimo mi intitoleranno dei giardinetti, che so, 4 aiole!» E tutti risero di gusto. La vita casalese, 3 novembre 2011. Contestata l'inaugurazione dei giardini in Viale Giolitti, intitolati al maresciallo Ugo Cavallero. Cerimonia con polemica. Questa mattina sono stati intitolati al maresciallo d'Italia Ugo Cavallero i giardini compresi tra i viali Ottavio Marchino e Giolitti a Casale. Il sindaco Giorgio De Mezzi si è detto particolarmente felice di aver accolto questa richiesta di intitolazione. Non sono mancate le contestazioni da parte dell'ANPI e della sinistra locale, che hanno definito inopportuno e grave dedicare uno spazio pubblico al comandante dell'esercito che aggredì senza alcuna giustificazione i popoli dell'Abissinia, al responsabile del massacro di Zeret dell'aprile del 1939, dove quasi 2000 persone, fra cui donne, vecchi e bambini, trovarono morte orribile, bruciati dal lanciafiamme o soffocati dal gas iprite, usati per stanare i residui di resistenza etiope. Eccellenza, riprese Monsignore Emmanuel, il prestigio di cui voi godete ai massimi livelli è indiscusso e vi sono grato se vorrete interessare Roma alle nostre umili faccende. Tuttavia, consentitemi di parlarvi con franchezza, più che della lenta macchina del governo centrale, ma attenderei frutti più immediati dalla vostra prestigiosa posizione presso l'Ansaldo. Da lì, correggetemi se sbaglio, potrebbe giungere un aiuto più immediato e forse anche più congruo, dico male? Ma dite benissimo, mi avete tolto le parole di bocca, caro monsignore, mi attiverò subito fin dal prossimo consiglio d'amministrazione. Mi pare cada agli inizi del mese. Sì, è così. E sarà la prima cosa che dirò loro. E vediamo di farli un po' frugare in quelle belle tasche piene, questi genovesi. Risate, botte di gomito, ammicchi simpatici. Dal canto mio, aggiunse il podestà Mazzucco, mi spenderò volentieri tanto nel partito quanto presso il gruppo fascista della Camera dei Deputati per agevolare in qualsiasi modo la vostra opera pia. E non dispero di trovare anche tra le mie conoscenze qualche benefattore privato che non abbia paura a metter mano al borsellino. A nome della giunta comunale, rincalzò il sindaco, vi garantisco il mio massimo impegno per far stanziare tutti quei denari che sarà possibile reperire nelle pieghe del bilancio, anche se, monsignore caro, voi sapete in quale difficoltà versano le nostre povere casse. Sono grato e commosso per tutte le vostre attestazioni di carità. Sapevo di poter contare sul cuore di uomini cattolici e generosi. Adesso che vi so concordi, lasciate che vi descriva i miei progetti per fare grande e superba la casa della nostra famiglia. Anzitutto, primissima e inderogabile necessità, è il restauro e l'abbellimento delle stanze del collegio in cui abitò il mio maestro, Don Giovanni Bosco. Gli sguardi di tutti si illuminarono e le teste si scossero verticalmente in un sì. E poi è necessario restaurare il refettorio e il portico, riparare il tetto all'oratorio festivo e abbellire la cappella, che oggi è disadorna. Questi sono solo restauri ordinari, insomma, l'urgenza, ma sarebbe ben misera cosa se noi uomini di fede guardassimo solo all'ordinario senza saper vedere oltre, senza indicare una prospettiva. È per questo motivo che nello spirito di apertura al mondo che anima la nostra famiglia salesiana, ho deciso di ingrandire il collegio, renderlo florido e sempre più accogliente, edificando nuovi corpi. Bravo, evviva! Questo vostro spirito dinamico e produttivo si inquadra perfettamente nel nuovo ordine che lo Stato fascista vuole innervare nel tessuto sociale per far grande l'Italia. Chiusò il podestà Mazzucco. Vi ringrazio, ma ho ancora un voto, un desiderio che carezzo nel cuore da quando sono tornato qui a Borgo San Martino. Ricordate che Sua Santità ha voluto, nella sua recente enciclica, ricordarci quanto sia giusto e necessario santificare il nome del nostro Redentore. Tutti finsero di saperlo. E perché più abbondanti siano i desiderati frutti che durino più stabilmente nella società umana, è necessario che venga divulgata la cognizione della regale dignità di nostro Signore, quanto più è possibile. Al qual scopo ci sembra che nessun'altra cosa possa maggiormente giovare quanto l'istituzione di una festa particolare e propria di Cristo Re. Pio XI, quid primas, 11 dicembre 1925. Thank you. Proprio per santificare il nome del nostro Redentore, ho pensato di fare edificare una nuova chiesa a lui dedicata. L'entusiasmo fu generale. Va fatta, ma che sia magnifica ed è grandiosa. Ah, che uomo, voi sì che fate, pur conto, ne parlerò a Roma assolutamente. E la riunione si sciolse fra mille sorrisi, strette di mano, mi saluti tanto la signora, eia, eia, la la, prestissimo, sì, sì, sì, ci risentiamo prestissimo. Appena Federico e Manuel restò solo, aprì il cassetto della scrivania e riprese in mano la cartella per l'ennesima volta. La sfogliò varie volte, avanti e indietro, ogni tanto chiosava qualcosa al lapis, poi mandò a chiamare l'economo. Era la quarta volta quella settimana. «Sedetevi, siamo ancora lontani dalla cifra. Le autorità civili mi hanno assicurato che faranno la loro parte, ma intanto noi dobbiamo procedere con le nostre forze, se vogliamo avanzare coi lavori». Ha risposto l'ingegner Gribaudo: «Quanto pensa di dare? Ma soprattutto mi chiedo, è mai possibile che non ci sia altro da alienare fra i nostri beni?» «Vedete, monsignore, l'ingegnere ha fatto sapere che deve ancora pensarci. Io gli ho risposto che non abbiamo molto tempo e che tenga a mente il grande rilievo che verrebbe dato al suo nome di benefattore sulla stampa locale. Quanto ai nostri beni, che devo dirle ormai di più? Ci sarebbero ancora i mobili della sagrestia vecchia. Lì qualche pezzo di buona fattura si può trovare. Volete che chiami l'antiquario Buzzi a vederli? Bravo! Vedete che a strizzar bene esce ancora qualcosa? Riflettete meglio, su, voi che conoscete l'edificio meglio di me. Qualcosa ci deve ancora sortire». L'economo iniziò a fissare con le ciglia aggrottate un nodo del legno della scrivania, mentre con le labbra biascicava in silenzio i nomi degli oggetti che incontrava, facendo un vorticoso... facendo un verticoso giro mnemonico del grande complesso di San Carlo. Poi si accese all'improvviso: «Le cose lì, le casse là in solaio, fate capire anche a me», incalzò padre Emanuel. «Vedete, monsignore, qualche anno fa, prima del vostro arrivo, mi pare siano 4 anni, ma potrei sbagliarmi, abbiamo ricevuto una donazione dalla famiglia Durazzo, qua vicino a Occimiano. Credo fossero libri vecchi, manoscritti, non so bene, non li ho mai visti. Il suo predecessore fece mettere tutto in solaio per mancanza di spazio. Provò anche a vendere tutto, ma non ci riuscì. Così quella roba è restata lassù. Chissà, forse là in mezzo c'è qualcosa di buono, vai a sapere. Accompagnatemi subito in solaio. Siete sicuri? Subito!» Percorsero a passo svelto lunghi corridoi, sali, salette, stanze, scale, finché col fiato grosso non furono su. Era un solaio immenso, con pianta a U, dove la base della U era il tratto più lungo, mentre i due bracci ne erano la metà. Capriate basse, decine di scaffali, casse, sacchi, cassapanche, mobili vecchi, materassi. Poi si girava nell'altro lato della U e tutto sembrava replicarsi uguale fino al terzo braccio, ugualmente ingombro. Monsignore Manuel fu come stizzito da quel contrattempo, si era immaginato tutto più piccolo e ordinato, anzi, non si era proprio immaginato nulla, aveva semplicemente fretta di vedere quelle carte. L'economo prese ad aprire bauli, sollevare coperte, spingere tavoli o seggiole che impedivano l'accesso ad altre casse, mentre il rettore, sempre ritto alle sue spalle, non faceva che scuotere ritmicamente la polvere delle falde dell'abito e pizzicare i pelucchi che comparivano di continuo sul nero della mozzetta. Passarono così nel silenzio più assoluto interminabili minuti, rotti solo dal rumore di mobili aperti o spostati. D'un tratto, padre Manuel sentì frugare furiosamente fra le sue caviglie. Il lancinante fa diesis sovracuto che emise mandò l'economo in tachicardia parossistica sopraventricolare, impedendogli di vedere il topo che si infilava ratto e lesto sotto a una cassettiera. «Niente, non è stato niente, mi devo essere punto con un chiodo», disse Monsignor con la voce gallinacea e tutti i peli del corpo ancora ritti, mentre l'economo lo fissava stravolto, boccheggiando in iperventilazione. La ricerca riprese per una lunga, interminabile e insopportabile ora buona. A ogni scaffale o cassapanca, Monsignore si riprometteva di scendere giù e farsi mandare a chiamare qualcuno quando fosse spuntato qualcosa. Ma poi la curiosità lo tratteneva, via, forse quella cassa là, no, nemmeno, ancora quest'armadio, e poi scendo. Come diceva il santo a cui era intitolato il suo ordine? Bisogna avere un cuore capace di pazientare. I grandi disegni si realizzano solo con molta pazienza e con molto tempo. Con questi mezzi tecnici che mi impediscono di avere un player della musica decente, maledetti, se ne avete uno, mandatemelo. Ed Emmanuel, buon teologo e filosofo, aveva imparato che, sebbene la pazienza non fosse il suo forte, la smania dei grandi disegni meritava lo sforzo di addomesticare gli impeti. Avevano da poco superato la metà del lato lungo della U quando, sollevato un gran telo polveroso che copriva diverse casse, l'economo pronunciò la parola «Eccoci!» «Qua, via, scansatevi, fatemi luogo!» E in un attimo padre Federico gli passò davanti per chinarsi su quella prima cassa, avido e curioso come un bimbo impaziente. Estrasse un grosso volume legato in pecora, cavò da sotto la mozzetta un paio d'occhiali d'oro a pince-nez e cominciò a sfogliarlo. È musica manoscritta. Lonati, Pasquini, Legrenzi, vediamo più avanti. Pallavicino, questo Legrenzi di nuovo. Tutti autori sconosciuti. Rinfilò il volume al suo posto e ne estrasse un altro. Il Proteo sia il mondo a rovescio. Che bizzarria è questa? Del Vivaldi. Ecco, un altro sconosciuto. Concerto con violino senza cantin, di nuovo questo Vivaldi. Concerto per due mandolini, ancora lui. Ma qui sono tutte musiche di questo qua. Passatemi quell'altro, sì, quello là più in basso. Ancora questo Vivaldi, ma chi è? Il Giustino, atti 3, con sinfonia in principio. Basta, questa è roba che non interessa a nessuno. Quell'altro, sì, quello qui sotto, quello lì, quello più sotto. Ah, ecco, messa in do soprano alto tenore basso del signor Giuseppe Haydn. Oh, finalmente qualcosa di buono. Duetto, vediamo, vediamo. Gluck, oh, ecco qualcosa, qualche buon compositore tra tanti sconosciuti. E poi, ah! Cherubini, questo sì che è un autore sopraffino, una delle maggiori glorie musicali italiche. Bene, bene, può bastare così. Coprite di nuovo tutto e dite al padre bibliotecario che per domani sera al massimo voglio sul mio tavolo la lista completa di tutti quei volumi. E qua che c'è? Sono cartelle di cartone, ma ce ne sono a decine l'una sull'altra. Apritene una, via. Stampe, tutte stampe antiche, disegni. Ma tutte stampe antiche e disegni, monsignore. Ottimo, questa è roba che va sempre e che può avere un buon mercato. Anche di queste voglio una lista. Preparate intanto le lettere per gli antiquari. Buzzi ad Alessandria, Berbero e Zucca a Torino. Poi scrivete alla Casa Cattaneo di Milano. Ah, sempre a Milano, scrivete a Pavesi, lui per le stampe è l'ideale. Poi Cocchi e Ventura a Bologna. A Firenze chi c'è? Aspetta. Ah, ecco, Panerai. E poi quell'altro, come si chiamava? Quello a cui abbiamo dato la Via Crucis, Signorini. A Roma sentite De Angelis, poi altri mi verranno in mente. Ma monsignore, non credete che forse, insomma, i donatori di questa biblioteca non avranno piacere di sapere che la stiamo vendendo? E chi glielo farà sapere? Faremo tutto nella discrezione più assoluta. Nelle lettere non farete il minimo cenno alla provenienza di questa roba e sarete attento a non lasciare nessuna traccia delle transizioni. Sì, ma e tenete a mente due cose. Prima di tutto, che questa è roba nostra, e in secondo luogo, che noi lavoriamo per la gloria di nostro Signore. L'economo chinò il capo e si segnò. L'istituto ha una linea di facciata di 142 metri, dei quali 60 appartengono alla cappella e al teatrino e 82 alle scuole. È in cemento armato e mattoni a tre piani, costruito secondo tutte le esigenze moderne dell'educazione e dell'igiene, con vastissimo cortile, con un'ampia e alta tettoia in ferro e mattoni, compiuta prima di ogni altra parte dalla previdente perspicacia di Monsignore Emanuel, fu benedetta il 21 novembre alla presenza di numerosissimo popolo accorso. Intervenne Sua Eminenza il Marchese Paterno di Macchi, ministro d'Italia, con la sua signora, il cavalier ufficiale Bombieri, console d'Italia, con la sua signora, col presidente federale commissar Carlo Grossi, commendator Carlo Grossi, munifico donatore del grazioso altare maggiore in pietra delle cave del Carso. Con quanta soddisfazione Monsignore Emanuele compì il sacro rito, era un frutto maturato dai suoi ardenti apostolici desideri. Dopo la benedizione, la cappella fu invasa dalla folla per assistere alla messa solenne celebrata da Monsignore Emanuele con assistenza di Sua Eminenza Monsignor Valeri, delegato apostolico. L'associazione degli ex combattenti aveva voluto approfittare di quella circostanza per far benedire Gagliardetti e l'occasione non poteva essere più bella. Monsignore Emanuele, nella sua vibrante allocuzione, seppe trovare parole per commuovere i cuori. Finita la funzione, fu accolto con un'ovazione il nome del salesiano direttore Monsignore Emanuele, che tutti ammirano per il suo valore e per l'attrattiva delle sue maniere. Dal bollettino salesiano, anno 52, numero 9. Rientrato in sagrestia, il primo chierico gli prese il secchiello e l'aspersorio. Il secondo gli tolse la stola, poi tutti e due gli sfilarono la casula e poi la cotta, rivestendolo con il rocchetto di pizzo donato dalla vedova Trotti. In quel mentre entrò sorridente il padre economo, sventolando una lettera che appoggiò sulla credenza, accennando una lieve flessione del capo. Monsignore Emanuel si illuminò in volto e rispose con gli occhi: «Oh, finalmente!» Gli fu subito dietro il commendator Grassi, uomo rubizzo, tarchiato e senza collo, che frullava per la stanza come un tacchino in calore, tutto accaldato ed eccitato per l'onore di essere il donatore del nuovo altare marmoreo, opera di pregevolissima fattura scultorea che alcuni parrocchiani avevano già ribattezzato il ferro da stiro. «Monsignore carissimo, voi oggi ci avete deliziato, edificato, commosso con le vostre parole». «Troppo buono, commendatore, come sapete siamo soltanto umili operai della vigna del Signore. È molto tempo potremo operare senza la generosità di benefattori della stoffa di vostra eccellenza che si è voluto...» «Basta, basta, basta, non voglio disturbarvi oltre mentre vi cambiate. Vi aspettiamo tra poco al banchetto». «Ah, lo sapete che ci raggiungerà anche il generale Cavallero? Ci converrà a rigar tutti dritti. Lo sa, monsignore, vero che quello non fa prigionieri?» «Che risa, ma che simpatico il commendatore!» «Sì, sì, sì, fra pochissimo. Senza di voi non si comincia. Vi raggiungo subito, commendatore carissimo. Promesso vero, lo sapete che è peccato dire le bugie. Tenetemi caldo il posto, son da voi. Senza fallo, senza fallo, quello là, badate bene, ci fucila tutti!» E sparì trotterellando a zigzag come un gallinaccio innamorato fra le navate annebbiate di incenso. Finalmente soli, maledetto seccatore, dov'è il tagliacarte? Ah, ecco. «Eccellenza reverendissima, vi accludo la lettera di cambio con l'importo del primo lotto inviatomi che voi potrete far riscuotere fin da adesso. Le stampe sono tutte buone e si possono esitare bene, così i libri che finora ho visto, ma per evitare la vostra eminenza l'incomodo di ripetute spedizioni, ho risoluto di formularvi un'offerta di acquisto in blocco dell'intera collezione affinché ella possa disporre fin da subito di una somma considerevole da destinare alle vostre importanti opere religiose. Da una stima che ho potuto fare, assistito dai validi collaboratori del mio studio, credo che la somma di lire 235.000 costituisca una realistica e generosa offerta per l'acquisto in blocco della vostra collezione. Resto in attesa delle vostre risoluzioni e nel frattempo vi bacio la mano con deferenza. Roberto Panerai e figli, antiquari in Firenze». 235.000, con questa finiamo la cappella, grandioso. «Ma sarà questo il valore? Chi me lo dice? Quanto abbiamo chiesto del primo lotto? 6.500, mi pare. C'erano 40 stampe e i libri. Sì, ma quelli erano libri a stampa, mica manoscritti. Vai a sapere quanto valgono quei manoscritti di musica. Mettiamo 2.000 per volume? No, facciamo 2.500. Per quanti volumi? 87. Qui ci vuole carta e penna. 5 per 7, 35. 4 per 8, 32. 2 riporto 3. Ecco, fanno 217.000 lire. Però poi ci sono le stampe, ma non credo che chiaramente il Panerai tira al ribasso. Ma come possa sapere? Basta, qui ci vuole un esperto che faccia una stima. Prudenza, non si deve venire a sapere. Via, non posso vendere senza sapere. Qui ci vuole una stima seria. Non voglio certo perdere un centesimo su questa roba. Monsignore, qua c'è la Marchesa Raffo per una benedizione. Marchesa carissima, benedicatus omnipotens Deus Pater et Filius. Venerdì 3 novembre 1741. Accosta di più alla riva, asino, vuoi farmi cadere in canale? Un momento, che diamine, lasciate lavorare i poveri diavoli. Eccola servita. Francesco fece un saltello per scendere sulla riva, mentre il gondoliere gli porgeva con fatica il grosso borsone. Bene, quanto ti debbo? Sono 5 piccoli, illustrissimo, più uno per il borsone. Ma bene, da quando in qua sulle gondole pagano anche le borse? Ma questa pesa quanto un cristiano, signoria, e poi me l'avete fatta portare giù dalla bottega. Basta così, quel che è giusto, bravo uomo. Un momento che li cavo da qua sotto, ecco, ora, trovati. Tieni la tua giusta mercede, e gli cacciò in mano una manciata di monete. Servo di vostrissima a buon rive... fermala, ma questi sono solo 5! Posterdati taragna calopristi per 2 col terrà? Gli gridò Francesco ormai distante. Cosa? Ciuccia qui e ciuccia là! E scomparve in corte canal, col suo borsone appresso, mentre le imprecazioni del gondoliere si perdevano nella foschia del primo mattino. Passò fra le due statue che solennizzavano l'ingresso di Palazzo Soranzo e traversò il giardino finché un servo lo fermò. «Alto, alto, signore! Dove credete di andare?» «Sono Francesco Vivaldi, libraio, e devo assolutamente parlare con Sua Eccellenza il senatore Jacopo Soranzo per un affare di libri che lo interesserà molto. Sedetevi su queste panche del portico, vado a sentire.» La nebbia gelata del mattino invadeva anche il portico aperto, pizzicava gli occhi e penetrava sotto al tabarro. Francesco se ne stava seduto infogattato sulla panca di marmo, stringendo ritmicamente ora una chiappa, ora l'altra per riscaldarsi. Passò un'interminabile mezz'ora. «Sua Eccellenza mi manda a dire che al momento è impossibilitato a ricevervi.» «E quanto ancora dovrò aspettare?» «Questo non ve lo so dire. Se volete potete riprovare domani, se no restate qua. E quando Sua Eccellenza sarà incomodo vi verrò a chiamare... servo.» «Ma ditegli che assolutamente il servitore era già scomparso.» Tornarsene indietro col borsone e riprovare l'indomani perdendo un'altra mattinata di lavoro, non se ne parlava neanche. Deliberò di restar lì a gelare nella speranza di essere ricevuto dal senatore e passò un'ora buona durante la quale ebbe modo di misurare con esattezza quanti passi era lungo e largo il portico. Contò tutte le mattonelle, camminando su una fila zigzag, ripeté l'operazione sul lato minore, questa volta cantando fra sé una retta cadenzata, un piede, una mattonella, un piede, una mattonella. Poi convertì il testo della rietta in una felicissima trasposizione metrica delle più scelte imprecazioni contro i santi Gervasio e Protasio e finalmente, miracolo, il servo tornò. «Seguitemi!» «Siano lodati San Gervasio e Protasio!» Si aliti al piano nobile, il servitore gli fece cenno di fermarsi nell'anticamera e scomparve dietro una porta. Francesco posò il borsone a terra e stette lì ritto dove l'avevano fermato. Passò qualche minuto, nulla, una decina di minuti, nessuno, un quarto d'ora, silenzio. Iniziò a muoversi lentamente in circolo intorno alla borsa. Poi osservò meglio il pavimento, era un mosaico, il finissimo battuto di terrazzo alla veneziana, raffigurava una grande losanga bianca grigia su fondo rosso. Dai vertici della losanga si dipartivano 8 ampie volute da acanto che intrecciavano le loro spirali quando si incontravano. Iniziò a percorrere le volute a passettini, stando ben attento a non uscire fuori sul campo rosso. Il difficile arrivava quando il ricciolo si assottigliava e si intrecciava con l'altro. Allora si doveva passare sulla voluta accanto, usando solo la punta della scarpa, stando ben attenti a non toccare il fiore grigio di raccordo che sicuramente portava malissimo. In capo a una quarantottina di minuti divenne un campione imbattibile di questo nuovo appassionante gioco. Sua eccellenza vi attende nella biblioteca, e con ampio cenno della mano guantata il servitore gli aprì una porta facendosi da parte. Francesco si svegliò di soprassalto col piede in bilico sul settimo ricciolo, raccattò borsa e tricorno e corricchiò trafelato fino alla soglia dove si ridette una parvenza di gravità. La biblioteca era grandissima e stipata di libri fino al soffitto. Gli scaffali in legno pitturato di grigio con cornici dorate erano a giorno, con gli sportelli protetti da reti metalliche. Ogni 2 blocchi gli scaffali rientravano in un imbotte che serviva a moltiplicarne la capienza, 4 per 2 lati maggiori della sala. In alto gli scaffali sostenevano un ballatoio praticabile a cui si accedeva da 2 poste scalette di legno. Lungo tutto il ballatoio, cinto da una sottile ringhiera di ferro, si ergevano alti scaffali meno alti e meno profondi che si sfilavano dritti a parete senza rientrare come quelli di sotto. In mezzo alla sala, 2 grandi tavoli affiancati correvano per quasi tutta la lunghezza. Uno era ingombro di libri aperti, libri impilati, schedari, l'altro di medaglie di vari foggi e metalli, alcune poste in ordine su cassette rivestite di velluto, altre disordinate. E poi bronzetti, piccole figure in terracotta, miniature su avorio o cartapecora, cinte dalle loro cornicette in argento o in ottone dorato. Sulla parete di fondo, opposta all'ingresso, cappeggiava in alto un'insegna in legno intagliato, dorato e laccato, su cui si leggeva la scritta Domus Superantia. Francesco rimase fermo per qualche istante sulla soglia, a considerare quel magnifico teatro della sapienza e della memoria. Poi si fece avanti, ma non vide nessuno. Avanzò dritto fino a metà sala col tricorno nella mano destra e il borsone che ormai gli segava la mano sinistra. Nessuno. Si fermò a guardarsi attorno e mentre si volgeva alla sinistra, lo spaventò da destra la voce del senatore che, seduto dietro una pila di volumi, gli disse secco: «E bravo il Vivaldi! Avete avuto anche il coraggio di venir qua dopo i ben noti fatti. Bisogna dire che la faccia tosta non manca nella vostra famiglia. Vostro fratello sparisce lasciando debiti dappertutto e voi avete l'ardire di ripresentarvi dopo la vostra famosa impresa». Per quanto il senatore Soranzo fosse pressoché suo coetaneo, era nato nel 1986, infatti Francesco nel 1689, gli parve Matusalemme. Le gote pendule, gli occhi borsari, la fronte spaziosissima che denunciava una calvizie ben catafratta sotto l'enorme parruccone trilobato di quelli che si usavano nel secolo precedente e gli cascava sulle spalle scendendo lungo alla clavicola, a insinuare riccioli fra la camicia slacciata e la ricca gualdrappa damascata cremisi e oro. Francesco si piegò in un inchino profondissimo. «Eccellenza illustrissima, domando 1000 volte perdono, come già ne chiesi alla vostra illustrissima famiglia fin dai tempi di quel fatto scellerato. Se gli infelici non sono assistiti da più scelti mecenati, è necessario si diano la disperazione. A tale miserabile stato il ritrovo se vostra eccellenza benignissima non mi soccorre. Sollevatevi su che mi fate ridere. E voi venite qua da me solo per chiedere perdono dopo. Quanti anni sono passati? Una ventina, mi pare. 20 precisi in questo 1741, eccellenza». La scena. 12 aprile 1721, primissimo mattino. Venezia, Calle Larga San Marco. I personaggi: Antonio Soranzo, Patrizio Veneto, 3 servitori del suddetto, Francesco Vivaldi, parrucchiere, 3 amici del suddetto, Giovanni di Bello Spirito. Giovani di Bello Spirito. Su via, seguitemi lesti. Tu presto, dammi il braccio. Stamattina mi sento come morire. Tremo tutto. Ma padron mio colendissimo, perché volete uscire con questo freddo? Potete restare comodo a letto se non vi sentite. Zitto e segui, devo essere in consiglio. Lesto tu con quella borsa. Oimè, mi par di morire. Mi sento il cuore che balla. Deus in agitorum meum, intende. Io muoio tra poco. Me lo sento. Domine ad adiuvanta mem. Festina. Eccellenza, poggiatevi pure a me. Rallentate il passo. Siete sicuri di non voler tornare a casa? A casa? A far cosa? Ogni giorno ho un mancamento. Qua si vive fra la vita e la morte. Tanto vale uscire. E poi, sopportare madama, mia moglie, che non crede che io sia malato, che non soffre più i medici per casa. Ah, che supplizio! Sapete cosa ha detto l'altro ieri? Che io fingo, che mi immagino malato per non aver più preoccupazioni e uffici. Capite? Allora tanto vale morire per strada. Andiamo, giovani, seguitemi. Ma se io muoio, ah, ma se io muoio, voglio proprio ridere, voglio vedere come ci rimane quella. Tiè. In quel momento, dalla bottega del caffè di Swan, Battista Mioni, alla insegna del Paradiso in Calla Larga San Marco, Francesco Vivaldi e tre suoi compari stavano uscendo dopo aver fatto giorno a giocare a picchetto e a bervin di Cipro. Erano storditi, ma ciarlieri e allegretti. Scorsero da lontano comparire in fondo al ponte dei Baretreri una figura piccola e dondolante, stretta fra tre uomini più alti. Camminava a piccoli passi e poi si arrestava. Riprendeva rapidamente, trottarellando a passettini corti col busto sporto in avanti. Poi dondolava, si portava una mano al petto e si arrestava di nuovo. Nessuno avrebbe immaginato che quel nano vestito di nero era un senatore della Repubblica. Sorreggetemi, qui ci vuole un medico. Basta, trovatemi un medico. Il servo particolare di Sua Eccellenza, Antonio Soranzo, si staccò dal gruppetto e corse in avanti cercando di trovare informazioni. Ma a quell'ora non vi era anima per le calle e tutti gli usci erano chiusi. Scorse in fondo alla calle un gruppetto di persone e vi si precipitò. Olà, quei giovani, sapete per caso indicarci un medico qui nei paraggi? Il nostro padrone sta male. Come no? Eccomi qua. Dov'è il malato? Dov'è il moribondo? Rispose al volo Francesco Vivaldi, baldanzoso per tutto il vindicipro che aveva in corpo. Ma, vossignoria è medico? Che fate? Dubitate della mia professione? Che insolenza! Ma che serve? Anni di studio a Bologna non sono serviti a nulla, niente può contro l'ignoranza. Ah, lo sapesse il mio venerato professore, quel grand'uomo del dottor Bon, discepolo prediletto del sublime Avicenna, lo conoscete, vero? Signore, ad altro momento computare i vostri meriti inestimabili, non volevo offendervi. Laggiù c'è l'ammalato, venite. Si affrettarono verso il ponte dei Bareteri. Francesco Vivaldi in testa, dietro al servo, gli altri compagni appresso, trattenendo le risate e dandosi di gomito. Trovarono il povero moribondo appoggiato alla spalletta del canale con due servi che lo sorreggevano per le braccia. Ah, ecco qua, voi siete un uomo fortunato. Voi siete un medico? Ansimò il nobiluomo, staccandosi dai servi e avvicinandosi verso Francesco come se avesse visto il Messia. Per vostra fortuna, e questi gentiluomini, miei colleghi, sono Cerusico, chirurgo e speziale per servirvi. I tre amici di Francesco affettarono improvvisamente serietà, chinarono il capo all'unisono di fronte all'ammalato, mentre si mordevano a sangue le labbra. Dio sia lodato, sentitemi dunque, da quando mi sono levato non fa che girarmi la testa, il cuore mi scoppia e mi sento mancare il fiato. Sentitemi il polso, vi prego. Ai vostri ordini. Ma prima di tutto ho per voi una medicina speciale che cura ogni mancamento. Avvicinatevi a me, chiudete gli occhi, aprite la bocca e statemi bene a sentire. Antipodi, posso darvi un qui c'è qui e là. Francesco Vivaldi, giovane parrucchier, fratello del famoso di Antonio, suonatore di violino, incontratosi una mattina assai per tempo con Antonio Oranzio Patrizio di scarsa figura e statura, supponendolo un medico, lo invitò ad esaminare il suo polso, nel mentre che costui slacciatesi le braghesse, l'esibì il suo membro, per il che il temerario con altri compagni furono bendito meritatamente da Venezia. Ah! Temerario, insolente! Aiuto, servi, soccorretemi! Bastonate costui! Fermo, che fate? Non potete ammicchiare un medico! Ah, che male! Ma era solo un simpatico scherzo! Ah, l'orecchio! Ah, no, ci soffro! Scappate, amici! E questo è per insegnare a rispettare i nobili uomini! Nane, presto, acchiappa quell'altro di là! Dottore, sì, eccoti la parcella per il tuo consulto! Ah, basta, basta, d'accordo, mi avete fatto male, ma ora siamo pari, vabbè. E tu la re... Ah, ma voi non capite gli scherzi? No, nello stomaco, ho mangiato 18 sarde in sore, no... Ah. Tienilo fermo al viso, che questo mi ci diverto un po' io. Signor Cerusico, prendete questo pegno della nostra riconoscenza. Messer Dottorino, questo è un acconto sull'onorario. Dategli esode a quelle bestie. Ohimè, se non muoio oggi, non muoio mai più. Oddio, oddio, oddio, mi sento venir meno. Di sicuro questa è la mia fine. Confundantur e reverendantur qui quaerunt anima meam. Oddio, oddio, bene, rompetegli le ossa a questi delinquenti. Sono tutto sudato, il cuore mi si ferma, lo sento, Deus adiuvame, bastonateli come meritano. Ah, avvertantur retrorsum e rubescant qui volunt mihi mala. Oddio, oddio, oggi muoio, è positivo. Altre due o tre legnate a quello là sul ponte. Nane, padrone, uno di questi cani mi è sfuggito, ma il nostro dottorino e gli altri due sono qua stretti. Molto bene, figlioli, ma prima di condurli dal giudice, dove finiranno di ridere, vorrei chiedere al vostro signor dottore, a questo medico eccellente che mi ha così prontamente soccorso con la sua scienza sovraffina, come si chiama? Francesco Vivaldi, per servirla, chiedo grazia a vostrissima, fu una burla innocente. Ah, basta, botte, per carità! Ma bravo il vostro Vivaldi, il nostro Vivaldi! Per caso avete parentela col famoso suonatore di violino? Sono suo fratello minore, per servirla. Ma bene, che degno fratello è il reverendo. Chissà come sarà contento quando dovrà venire in tribunale a testimoniare per voi. Lo saprà tutta Venezia. Ho piacere. E ditemi, caro discepolo di Ippocrate, che mestiere fate? Anche voi vi dilettate col violino, magari nei postriboli. Sono parrucchiere, eccellenza, e non voglio canzoni. No, no, nello stomaco, no, per pietà. Basta così, portatelo dai birri coi suoi degni compari. Ci penseranno loro a pettinare la parrucca al parrucchiere. Scena di 20 anni prima gli era ripassata rapidissima davanti agli occhi, e adesso la grande biblioteca si era trasformata per lui in una cattedrale opprimente e oscura. Le librerie parevano curvarsi a formare archi a sesto acuto in barbaro gusto gotico, mentre la moltitudine di libri che la tappezzavano divenne una gabbia gigantesca in cui ogni scansia formava una gabbia. Le immagini di quei giorni terribili trascorsi a piombi e poi quegli 8 mesi di esilio lontano dai suoi cari e dalla sua bottega, costretto a vivere come un servo in casa di contadini, passarono in un turbine davanti agli occhi di Francesco Vivaldi, rendendolo d'improvviso stanco e afflosciato. La grande borsa che gli segava le dita fin dal primo mattino gli scivolò di mano, cadendo a terra con un tonfo sordo. Quanti altri tonfi avrebbero dovuto subire le cose che stavano là dentro? Dio solo lo sa. L'incantesimo di quell'impressione oscura svanì quando il senatore Jacopo Soranzo riprese a parlare. «Voi non ci crederete, ma la storella di quella ipocondriaco insopportabile di mio zio Antonio, che si imbatte in voi di primo mattino, è diventata la barzelletta principale della nostra famiglia. Quando c'è bisogno di ravvivare un desinare noioso o una conversazione un po' fiacca, la racconto subito e vi assicuro che ottiene sempre un bel successo. Vi dovrei quasi ringraziare, caro il mio insolente temerario.» Un'espressione di ebete euforia comparve sul viso di Francesco a quelle parole inattese, ed un colpo si sentì rigenerato e rinvigorito. «Ma allora voi non... Grazie, eccellenza, non ho parole per esprimervi la mia più profonda...» «Basta così, pochi complimenti. Ditemi piuttosto qual è il vero scopo della vostra visita e quale sarebbe questo affare che mi interesserà molto. Vengo al sodo. Voi sapete che mio fratello Antonio è mancato 3 mesi fa in Vienna, pace all'anima sua», disse segnandosi, «senza aver avuto la grazia di tornare in questa nostra serenissima dominante a godere la sua vecchiaia. Di questo ho purtroppo saputo e mi è dispiaciuto assai, ma si sa anche quale scandalo ha dato coi suoi debiti per tutta Venezia. Forse avrebbe dovuto portarsi meglio il vostro caro fratello, musico validissimo, sì, ma amministratore scellerato delle sue cose. Non dite così, eccellenza, voi non sapete che tribolazione ha dovuto passare negli ultimi anni. Qui a Venezia sono tutti pazzi per questa musica napoletana, sciocca e leggera, che nessuno vuole più ascoltare la sua musica. A Ferrara aveva delle scritture che gli hanno stracciato gettandolo sul lastrico e lui, facendo l'impresa di tasca sua, senza chiedere prestiti a nessuno, si è ritrovato a dover pagare tutti gli scritturati, anche se non erano andati in scena. Poi fa l'ultima sua opera qui al Sant'Angelo e per un po', e un po' per essere stata straziata dai cantanti, un po' per la solita maledetta moda, è un fiasco. Per liberarsi dai debiti risolve allora di vendere una certa porzione di sua musica alla Pietà. E sapete che gli rispondono quei cari governatori, gli stessi che l'ha spremuto come un limone per 40 anni? Ci dispiace, non ci interessa. Abbiamo il nuovo maestro di coro, con la zucca vuota di Gennaro d'Alessandro, napoletano anche lui. Mio fratello, quello che ha insegnato all'Europa come si compone la vera musica, si trova così a 62 anni a mendicare, a subire queste umiliazioni. Dopo molta insistenza, quei protettori generosi gli acquistano solo una piccola parte dei suoi concerti. Con quei pochi soldi se ne parte come un birbante, coperto di vergogna, con la speranza di risollevare la sua reputazione presso l'imperatore, suo antico protettore. Ma la cattiva sorte lo perseguita anche laggiù. Poco dopo il suo arrivo a Vienna, mio fratello cerca di farsi ricevere dall'imperatore, ma niente. Lo tiene in anticamera e rimanda. Aspetta, spera, ritenta, e intanto passano 3 mesi senza che lui possa fare niente, con soldi che gli si consumano in tasca. Improvvisamente, colmo della sventura, l'imperatore muore, mangiando un piatto di funghi velenosi, e tutti i teatri dell'impero vengono chiusi per un anno intero in segno di lutto nazionale. A mio fratello, che aveva riposto tutte le speranze nella sua nuova opera fatta appositamente per Vienna, crolla il mondo addosso. Per campare laggiù, senza un incarico né un sostegno, inizia allora a vendere alla disperata quei pochi concerti che ancora gli sono rimasti. Poi si ammala anche lui, che è sempre stato di salute cagionevole e sofferente di mal di petto. Avrete certo saputo che aveva bisogno costante di assistenza, tant'è vero che non riusciva a camminare perché gli mancava il fiato e doveva muoversi qui a Venezia in gondola, in terraferma e in carrozza. Tutti i suoi viaggi gli sono sempre stati co costati moltissimo perché ha dovuto portarsi dietro almeno 2 o 3 persone che lo aiutassero. Ma questa volta come avrebbe potuto fare? Ecco, in questo stato muore, solo, lontano, disperato. Francesco non ce la fece a raccontare tutto senza commuoversi e le sue ultime parole iniziò a piangere con grande dignità, mantenendo lo sguardo velato, dritto negli occhi del senatore, mentre 2 lacrime gli scivolarono veloci sulla faccia. Perdonate, eccellenza. Soranzo fu scosso a quel racconto e si accorse che anche lui aveva gli occhi umidi. Aveva conosciuto e ascoltato Antonio Vivaldi qualche volta alla Pietà e al Teatro Sant'Angelo. Aveva ammirato la sua musica e lo considerava una gloria della Repubblica. Mai avrebbe immaginato che sarebbe potuto finire così male. Gli venne in mente quella sera. Sarà stata una quindicina d'anni prima, proprio quando mise piede per la prima volta in quel Teatro Sant'Angelo. Un po' troppo plebeo per lui, ma era carnevale, in maschera si va dappertutto. 2 cose lo colpirono: quel prete nasuto che tra un atto e l'altro del dramma gli pareva fosse la fede tradita e vendicata, sì, era quella, si alzò dal cembalo, prese il violino e suonò un suo concerto che aveva dei passi di una difficoltà diabolica. Le dita lunga del prete correvano sulla tastiera del violino e arrivavano a un capello dal ponticello senza mai sbagliare, facendo salti e arpeggi su tutte le corde. Mai visto nulla di simile. L'altra cosa che lo colpì fu un'aria che aveva un che di magico, miracoloso, ipnotico, sognante. Parlava degli elisi e c'erano 2 flauti traversieri, cosa rarissima per quegli anni. I violini con sordina e un violoncello in arpeggio che formavano una sonorità mai sentita prima, sublime e toccante allo stesso tempo. Quella sera si rese conto che quel prete aveva il talento di muovere le più diverse e profonde corde dell'animo umano. Thank you. Ci fermiamo qua per la puntata di oggi della Fuga del Gatto. Siamo circa un 10, ho sforato di circa 10 minuti, ma secondo me, insomma, ne valeva un po' la pena, spero perlomeno. E dopodiché vi lascio alla programmazione di Radio Wombat. Ovviamente con la puntata di oggi ci fermiamo qua e con la lettura del libro L'affare Vivaldi di Federico Maria Sardelli pure ci fermiamo qui, lasciandoci con questa visita nella residenza nobile del senatore Jacopo Soranzo nella metà del Settecento, e in questo incontro tra Jacopo Soranzo e il fratello di Antonio Vivaldi, Francesco Vivaldi, Francesco Vivaldi con una borsa carica di manoscritti, chissà, chissà che cosa vorrà da il senator Soranzo. Lo scopriremo nella prossima puntata. Con questo quindi vi saluto e vi do appuntamento domenica prossima alla Fuga del Gatto, e però rimanete in compagnia di Radio Wombat. Ci sono ancora un po' di cose per oggi che vi aspettano, tra cui anche la diretta consueta tra poco che partirà alle 19, diretta, appunto la consueta diretta in tempo di quarantena che non vi neghiamo mai tutti i giorni per tenervi aggiornati e tenervi un po' compagnia. Quindi a domenica prossima, ciao ciao!